Ad alta voce, Tommaso Ragno legge Frankenstein di Mary Shelley. Traduzione di Luca Lamberti. Fui presto introdotto alla presenza del magistrato, un vecchio benevolo dai modi calmi e cortesi. Mi guardò però con una certa severità e poi, volgendosi a chi mi accompagnava, chiese chi doveva presentarsi come testimone in quella circostanza. Si fecero avanti una mezza dozzina di uomini e quello scelto dal magistrato dichiarò che la notte precedente era in mare a pescare con suo figlio e suo cognato Daniel Nugent, quando verso le 10 aveva notato che si stava levando da nord un forte vento e si era quindi diretto verso terra. Era una notte molto scura, dato che la luna non si era ancora levata. Essi erano approdati non al porto, ma secondo la loro abitudine in una stretta insenatura a circa 2 miglia di distanza. Dopo lo sbarco, egli si era messo in testa al gruppetto con una parte delle reti e i suoi compagni lo avevano seguito a una certa distanza. Mentre camminava lungo la spiaggia, aveva urtato il piede contro qualcosa ed era caduto a terra a lungo disteso. I suoi compagni erano corsi ad aiutarlo e alla luce della lanterna si erano accorti che aveva inciampato nel corpo di un uomo che sembrava morto. In un primo tempo avevano pensato che si trattasse del corpo di un annegato buttato a riva dalle onde, ma dopo un esame sommario si erano accorti che i suoi abiti non erano bagnati e che il cadavere non era ancora freddo. Subito lo avevano trasportato nella vicina capanna di una vecchia e avevano cercato, ma invano, di richiamarlo in vita. Si trattava di un giovane di bell'aspetto e di 25 anni circa. Pareva fosse stato strangolato perché non recava segno di violenza all'infuori di un'impronta scura di dita intorno al collo. La prima parte di questa deposizione non destò in me il minimo interesse, ma quando si accennò all'impronta delle dita, ricordai l'assassinio di mio fratello e fui preso da una grandissima agitazione. Le membra cominciarono a tremarmi e una nebbia mi calò dinanzi agli occhi, tanto che per reggermi fui costretto ad appoggiarmi a una sedia. Il magistrato mi osservava con occhio penetrante e naturalmente ebbe dal mio contegno un'impressione sfavorevole. Il figlio del pescatore confermò la deposizione del padre. Daniel Nugent, invece, quando fu chiamato, affermò con sicurezza di aver visto, un istante prima che il suo compagno cadesse, una barca montata da un solo uomo a poca distanza dalla spiaggia. Per quanto era possibile giudicare alla luce delle poche stelle, si trattava della stessa barca con la quale io avevo poco innanzi preso terra. Una donna che abitava vicino alla spiaggia dichiarò che mentre si trovava sulla porta di casa, in attesa del ritorno dei pescatori, circa un'ora prima di sapere della scoperta del cadavere, aveva visto una barca montata da un solo uomo allontanarsi da quel punto della costa dove era poi stato rinvenuto il corpo. Un'altra donna confermò la deposizione dei pescatori che avevano trasportato il corpo a casa sua. Non era ancora freddo. Lo avevano messo nel letto e lo avevano massaggiato. Daniel era andato a cercare un medico in città, ma oramai la vita era fuggita da quel corpo. Altre persone furono interrogate a proposito del mio sbarco e tutte furono d'accordo nell'affermare che con il forte vento di nord levatosi la notte, io potevo essere andato alla deriva per molte ore, per vedermi poi costretto a tornare pressappoco allo stesso punto dal quale ero partito. Inoltre, osservarono, sembrava che io avessi trasportato il cadavere da qualche altra località, ed era probabile che, non conoscendo evidentemente la costa, fossi entrato nel porto senza sapere la distanza della città dal luogo in cui avevo abbandonato il corpo. Dopo aver ascoltato queste deposizioni, il signor Kerwin volle che fossi condotto nella locanda dove la salma giaceva in attesa di sepoltura, per osservare le reazioni che quella vista avrebbe prodotto su di me. L'idea gli era stata probabilmente suggerita dall'agitazione che avevo mostrato quando si era descritto in quale modo la vittima fosse stata assassinata. Fui quindi accompagnato alla locanda dal magistrato e da diverse altre persone. Non potevo fare a meno di essere colpito dalle strane coincidenze che si erano verificate in quella notte fatale. Ma sapendo di avere parlato con diverse persone, nell'isola dove abitavo all'incirca alla stessa ora in cui il cadavere era stato rinvenuto. Ero perfettamente tranquillo sulle conseguenze dell'incidente. Entrai nella camera dove la salma giaceva e fui condotto accanto alla bara. Come posso descrivere quello che provai guardandola? Ancora mi sento raggelare dall'orrore, né posso pensare a quel terribile istante senza un brivido d'angoscia. Il processo, la presenza del magistrato e dei testimoni mi si cancellarono come un sogno dalla memoria quando vidi, steso dinanzi a me, il corpo senza vita di Henri Clerval. Il respiro mi si mozzò e, lasciandomi cadere sul cadavere, esclamai: «Le mie macchinazioni assassine hanno dunque privato della vita anche te, carissimo Henri. Due creature ho già distrutto, altre vittime attendono, ma tu, Henri, il mio amico, il mio benefattore». Il fisico umano non può sopportare a lungo un'angoscia straziante come quella che mi torturava, e fui trasportato fuori dalla stanza in preda a forti convulsioni. Poi sopraggiunse la febbre e rimasi per 2 mesi in punto di morte. I miei deliri, come seppi in seguito, furono spaventosi. Mi proclamavo assassino di William, di Justine e di Clerval. Qualche volta pregavo le persone che mi assistevano di aiutarmi a distruggere il nemico dal quale ero perseguitato. Altre volte sentivo le dita del mostro stringermi la gola e gettavo urla di terrore e di angoscia. Per fortuna parlavo nella mia lingua natale, e solo il signor Kerwin capiva. Ma i miei gesti e le mie grida erano sufficienti a spaventare gli altri testimoni. Perché non morii allora? Perché non scivolai nell'oblio dell'eterno riposo? Io, il più miserabile degli uomini. La morte si porta via molti bimbi in fiore, le uniche speranze dei loro genitori affettuosi. Quante giovani spose, quanti giovani innamorati, oggi pieni di salute e di speranze, saranno domani preda dei vermi e ceneri nelle tombe. Di che cosa ero fatto io per resistere a tanti colpi che, come il girare di una ruota, rinnovavano di continuo la tortura? Condannato a vivere, e 2 mesi dopo mi ritrovai come risvegliato da un sogno, disteso su un misero lettuccio e circondato da carcerieri, secondini, catenacci e da tutto lo sciagurato apparato di un carcere. Era mattina, ricordo, quando mi risvegliai alla realtà. Avevo dimenticato i particolari di ciò che era accaduto e avevo soltanto la sensazione di essere stato a un tratto travolto da qualche grande disgrazia, ma quando girai attorno lo sguardo e vidi le inferriate alle finestre e la squallida stanza in cui mi trovavo, tutto mi balenò alla memoria e gemetti penosamente. Questo suono disturbò una vecchia che stava dormendo su una sedia accanto a me. Era un'infermiera a pagamento, la moglie di uno dei secondini, e il suo volto esprimeva tutte le cattive qualità che di solito caratterizzano questa categoria di persone. I tratti del suo viso erano duri e rozzi come quelli di chi è abituato a guardare la miseria senza provare per essa simpatia alcuna. Il suo tono esprimeva l'indifferenza più completa. Si rivolse a me in inglese e riconobbi la voce che avevo sentito durante le mie sofferenze. «State meglio, signore?» chiese. Risposi nella stessa lingua, con voce flebile. «Credo di sì. Ma se tutto è vero, se non si tratta di un sogno, mi spiace di essere ancora vivo a sopportarne l'angoscia e l'orrore». E la vecchia mi rispose: «Oh, quanto a questo, se intendete parlare del gentiluomo che avete assassinato, suppongo che davvero sarebbe meglio per voi essere morto, perché credo che ve la passerete male. Ma questo non è affare mio. Ho l'incarico di assistervi e di farvi guarire. Faccio il mio dovere con coscienza tranquilla, e sarebbe bene che tutti facessero come me». Distolsi con ribrezzo lo sguardo dalla donna che poteva parlare in maniera così cinica a chi si era a stento salvato dalla morte. ma mi sentivo debole e incapace di riflettere su ciò che era accaduto. Tutta quanta la mia vita mi appariva come un sogno. Qualche volta mi chiedevo se si trattava di cose realmente avvenute, perché mai esse si presentavano alla mia mente con la forza della realtà. Mano a mano che le immagini che mi fluttuavano dinanzi si fecero distinte, ritornò la febbre. Le tenebre mi stringevano da ogni parte, non c'era nessuno accanto a me a consolarmi con la voce gentile dell'amore, nessuna mano cara mi sosteneva. Venne il medico e mi ordinò alcune medicine che la vecchia mi preparò, ma nel primo era visibile un'assoluta noncuranza e l'espressione di brutalità era più che mai evidente sul viso della seconda. A chi poteva interessare il destino di un assassino, se non al boia, che si sarebbe guadagnato lo stipendio? Un giorno, mentre mi andavo a mano rimettendo, me ne stavo seduto su una sedia, gli occhi socchiusi, le guance livide come quelle di un morto. Preda della tristezza e dello sconforto, pensavo spesso che meglio sarebbe stato morire piuttosto che restare in un mondo che per me era colmo solo di sventure. Qualche volta consideravo se non mi convenisse dichiararmi colpevole e affrontare i rigori della legge, dato che non ero meno innocente di quanto lo fosse stata Justine. Ero immerso in questi pensieri quando la porta della mia stanza si aprì ed entrò il signor Kerwin. Il suo viso esprimeva simpatia e compassione. Avvicinò una sedia alla mia e mi si rivolse in francese. «Temo che questo posto vi riesca terribilmente penoso. Posso fare qualcosa per mettervi più a vostro agio?» «Vi ringrazio, ma tutto ciò non ha per me importanza alcuna. Non c'è nulla al mondo che mi possa confortare. So che la simpatia di un estraneo deve essere di ben poco sollievo a chi, come voi, è vittima di una così strana sventura. Ma voi lascerete presto, spero, questa melanconica dimora, perché senza dubbio sarà facile addurre prove che vi scagioneranno da ogni accusa. Oh, questa è la mia ultima preoccupazione, per una strana concatenazione di eventi. Sono diventato il più infelice dei mortali, perseguitato e torturato come sono e come sono stato. Può la morte essere un male per me? Davvero in questa circostanza siete stato oggetto di una singolare sfortuna. In seguito a qualche strano incidente siete stato spinto su queste spiagge famose per la loro ospitalità e subito fatto prigioniero e accusato di assassinio. Il primo spettacolo che si è presentato ai vostri occhi è stato il cadavere del vostro amico, assassinato in circostanze inspiegabili e posto a quanto pare sul vostro cammino da qualcuno che vi odia. Mentre il signor Kerwin pronunciava queste parole, nonostante il turbamento provocato in me dalla rievocazione delle mie sciagure, provai una certa sorpresa per tutto ciò che egli sembrava sapere nei miei riguardi. Probabilmente il mio viso dimostrò un certo stupore, perché il signor Kerwin si affrettò a dire: «Quando vi siete ammalato, mi sono state portate tutte le carte che avevate addosso e le ho esaminate per trovare qualche indizio che mi permettesse di mettere al corrente i vostri parenti della vostra disavventura, della vostra malattia. Trovai diverse lettere, e fra le altre, una che, come mi accorse all'inizio, proveniva da vostro padre. Subito scrissi a Ginevra e sono trascorsi quasi 2 mesi dalla partenza della mia lettera. Ma voi siete malato, anche ora tremate. Non siete in grado di sopportare agitazione alcuna. Questa attesa è 1000 volte peggiore del più terribile degli eventi. Ditemi quale tragedia si è svolta e quale nuovo assassinio debba io ora piangere. La vostra famiglia è in perfetta salute. disse il signor Kerwin con gentilezza. E qualcuno, un amico, è venuto a visitarvi. Non so per quale concatenazione di pensieri mi venisse quest'idea, ma subito mi balenò alla mente che l'assassino fosse venuto a prendersi gioco della mia angoscia e a tormentarmi con la morte di Clerval per incitarmi ad acconsentire nuovamente ai suoi infernali desideri. Mi coprii gli occhi con una mano e gridai terrorizzato: «Tenetelo lontano, non posso vederlo. Per l'amor di Dio, non lasciatelo entrare!» Il signor Kerwin mi guardò con espressione inquieta. Non poté fare a meno di considerare la mia esclamazione come un indizio di colpevolezza e disse, in tono piuttosto severo: «Pensavo, giovanotto, che la presenza di vostro padre vi sarebbe riuscita gradita invece di ispirarvi una così profonda ripugnanza.» «Mio padre?» esclamai, mentre ogni muscolo e tratto del viso rilassandosi passava dall'angoscia al piacere. «Davvero? È venuto mio padre? Quanta bontà da parte sua, ma dov'è? Perché non viene?» Il mutamento dei miei modi sorprese e impressionò favorevolmente il magistrato. Forse pensò che la mia esclamazione precedente fosse stata un momentaneo ritorno al delirio e subito riprese il suo atteggiamento benevolo di poco prima. Si alzò e uscì dalla stanza assieme all'infermiera, e un istante dopo entrò mio padre. Nulla in quel momento avrebbe potuto farmi più felice dell'arrivo di mio padre. Gli tesi la mano ed esclamai: «Sei salvo, dunque! Ed Elizabeth? Ed Ernest?» Mio padre mi calmò, assicurandomi che stavano bene, e indugiando su questi argomenti così cari al mio cuore, cercò di sollevare il mio spirito abbattuto, ma subito si accorse che una prigione non può essere la dimora della letizia. «In quale posto ti trovi, figlio mio?» disse, fissando tristemente la finestra a sbarre il misero aspetto della stanzetta. «Viaggiavi per trovare la felicità. È un triste destino sembra perseguitarti e il povero Clerval.» Il nome del mio sciagurato amico assassinato era un'emozione troppo grande perché potessi sopportarla nel mio stato di debolezza. Scoppiai in lacrime. «Ahimè, sì, padre mio», risposi. «Un orribile destino grava su di me e devo vivere per compierlo. Oh, certo, avrei dovuto morire sulla bara di Henri.» Non ci fu concesso di parlare a lungo perché le mie condizioni di salute rendevano necessaria ogni misura intesa ad assicurarmi la tranquillità. Venne il signor Kerwin e insistette perché le mie energie non fossero sottoposte a uno sforzo eccessivo, ma l'apparizione di mio padre fu per me come quella di un angelo buono, e la mia salute migliorò gradatamente. Mano a mano che mi ristabilivo, cadevo preda di una cupa melanconia che nulla valeva a dissipare. L'immagine spettrale di Clerval, assassinato, era sempre dinanzi a me. Più volte l'agitazione che mi mettevano questi pensieri fece temere ai miei amici una pericolosa ricaduta, ma perché mi avevano salvato una vita così miserabile e odiata? Certo, perché adempissi al mio destino, che ora sta per compiersi. Presto, oh molto presto, la morte placherà queste ansie e mi solleverà dal mio grave fardello. Dopo che avrò fatto giustizia, mi abbandonerò al riposo. Allora la morte sembrava lontana, anche se il desiderio di essa era sempre presente al mio spirito, e spesso rimanevo seduto per ore, muto e immobile, nell'assurda speranza che qualche grande catastrofe potesse seppellire fra le rovine me e il mio distruttore. Il periodo delle assise si avvicinava. Avevo trascorso in prigione 3 mesi, e per quanto fossi ancora debole ed esposto al continuo pericolo di una ricaduta, fui costretto a compiere un viaggio di quasi 160 chilometri fino al capoluogo dove aveva sede la corte. Il signor Kerwin si incaricò di raccogliere con la massima cura le testimonianze in mio favore e di apprestare la mia difesa. Mi fu risparmiata la sciagura di apparire in pubblico come un criminale, perché il caso non fu portato dinanzi alla corte che decide della vita e della morte. Il gran giurì respinse l'imputazione, perché risultò che nell'ora in cui il corpo del mio amico era stato rinvenuto, io mi trovavo alle isole Orcadi. 15 giorni dopo l'assoluzione, venni liberato dal carcere. Mio padre fu lietissimo quando seppe che ero sollevato da ogni accusa e che potevo respirare di nuovo l'aria libera che mi era permesso di tornare in patria. Io non condividevo questi suoi sentimenti. Per me, le mura di una prigione e quelle di un palazzo erano egualmente odiose. La coppa della vita era avvelenata per sempre, e sebbene il sole brillasse su di me come su coloro che avevano il cuore gaio e felice, io non vedevo attorno a me che una tenebra fitta e paurosa dove non penetrava luce, tranne il balenio di 2 occhi che mi fissavano. Talvolta erano gli occhi espressivi di Henri nell'anguore della morte, le palpebre dalle lunghe ciglia nere appena dischiuse. Altre volte erano gli occhi torbidi e acquosi del mostro, come li avevo visti la prima volta nella mia camera di Ingolstadt. Mio padre cercava di risvegliare in me sentimenti di affetto. Mi parlava di Ginevra, che presto avrei rivisto, di Elisabeth e di Ernest, ma le sue parole non facevano che strapparmi gemiti profondi. Qualche volta, in effetti, avvertivo un desiderio di felicità e pensavo con melanconico piacere alla mia diletta cugina, o con una divorante maladie du pays bramavo di rivedere ancora una volta il lago azzurro e il rapido Rodano che erano stati così cari alla mia prima infanzia. Ma in genere mi abbandonavo a un torpore per il quale non c'era differenza fra una prigione e un incantevole paesaggio. Ogni tanto questo stato d'animo era interrotto da parossismi di angoscia e di disperazione. In questi momenti cercavo spesso di mettere fine a un'esistenza che odiavo, e si era resa necessaria una vigilanza assidua per impedirmi di commettere qualche fatale atto di violenza. E tuttavia mi rimaneva un dovere da compiere, il cui ricordo infine ebbe la meglio sulla mia disperazione egoistica. Era necessario che tornassi a Ginevra senza indugio, per sorvegliare le vite di coloro che più amavo e restare in attesa dell'assassino. Se il caso mi avesse condotto al suo nascondiglio, o se avesse osato ancora tormentarmi con la sua presenza, avrei potuto con mira sicura mettere fine all'esistenza mostruosa che avevo dotato di una parodia di anima, ancor più mostruosa. Mio padre avrebbe voluto rimandare ancora la nostra partenza, temendo che non fossi in grado di sopportare le fatiche del viaggio. Ero un relitto malandato, l'ombra di un essere umano. Le forze mi avevano abbandonato. Ero uno scheletro, e la febbre si accaniva notte e giorno sul mio corpo debilitato. Da quando ero guarito dalla febbre, avevo l'abitudine di prendere ogni notte una piccola quantità di laudano. Questa droga, infatti, era l'unico mezzo che avessi per concedermi il riposo necessario alla sopravvivenza. Oppresso dal ricordo delle mie sciagure, ne versai allora dose doppia, e subito mi addormentai profondamente. Ma il sonno non diede tregua alla mia angoscia, nei sogni trovai 1000 immagini che mi spaventarono. Verso mattino ebbi una specie di incubo. Mi pareva di sentire attorno al collo la stretta del demone e di non potermene liberare. Gemiti e grida mi risuonavano nelle orecchie. Mio padre, che vegliava su di me, si accorse della mia agitazione e mi destò. Tutto intorno c'erano le onde che si frangevano, e sopra di me il cielo nuvoloso. Il demone non era lì. Un senso di sicurezza, la sensazione che si fosse stabilita una tregua tra l'ora presente e l'inevitabile, disastroso futuro, mi infuse una sorta di quieto oblio, a cui per sua struttura la mente umana è particolarmente disposta.